La carrozza e la mosca da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Per una strada lunga, erta, sassosa e tortuosa, esposta a pieno sole, sei robusti cavalli ivano a stento tirando una carrozza. La pietosa gente era scesa, vecchi, donne e frati, e i cavalli sudati e trafelati erano lì per cedere. Quando arriva una mosca che, volando, puzzecchiando e di qua di là ronzando, pensa che tocca a lei spinger la macchina. Posa il timone, sulla punta siede del naso al carrozziere e quando vede che la macchina o bene o mal cammina, si ringalluzza tutta la sciocchina. Va e viene e si riscalda con la boria d'un capitan di vaglia, allor che muove in mezzo a una battaglia i dispersi soldati alla vittoria. «E non vi pare indegno, pensava quella stolta bestiola, che a spinger sia sola mentre legge il frataccio in pace santa il breviario e questa donna canta? Forse che col cantar si tira il legno? Intanto che l'insetto ronza queste note moleste, il legno arrivò su e la mosca, buon Dio, ci siamo al fine su queste alte colline. Ehi, signori cavalli, ringraziatemi, la strada ora va in piano, non vi rincresca a dar la buona mano». Così fanno quei certi faccendoni che nelle imprese sembrano necessari e guastano gli affari in ogni cosa, gente importuna, inutile e noiosa. Fine della favola, la carrozza e la mosca. Questa registrazione è di dominio pubblico.